Hi, welcome, Vladimir. Nice to meet you here in this open space. So, why did you decide to present these two books? And can you tell us something about anarchic movement in Belarus? Well, the idea is to present a situation of anarchists and general situation, or social situation and political situation in the country through these books. All the books speak of very specific experience. It's a prison experience of political prisoners. Lui ha deciso di portare a conoscenza quella che è la situazione sociale e politica in Bielorussia parlando di questi due libri che nascono da due esperienze purtroppo fatte in carcere dagli autori. And have you already presented and spoken about these two books in other European countries? Well, in some places authors, especially Mykola Zadok, were presenting books, but mostly to the anarchist audience. E sì, diciamo che sono stati presentati questi due libri, soprattutto quello di Mykola, ma in spazi, diciamo, di compagni anarchici, in qualche maniera gestiti da compagni anarchici. And I have read the book of Mykola, and I have been shocked by the so-called the SEG, so punishment that imprisoned people, especially if they have been imprisoned for political motivation, have to support, to live and to face every day. Can you speak about this? How is to get imprisoned in Bielorussia, especially if you are imprisoned for political reasons? Quindi qual è l'esperienza che un prigioniero politico fa in Bielorussia, un prigioniero in generale? Perché leggendo il libro di Mykola io sono stata molto scioccata dall'esperienza fatta dai prigionieri nel cosiddetto The Seg. Well, first we have to recall that Belarus since mid-90s has an authoritarian regime which becomes gradually more and more authoritarian with less and less space for political expressions. And Alexander Lukashenko is in power since 1994. E l'autore è stato sono stati incarcerati nel 1994 perché fino a metà degli anni 90 in Bielorussia c'era un governo molto molto autoritario. And also these two particular political prisoners, they got imprisoned in relation to one and the same case in 2010. In 2009 and 2010, Belarusian anarchists were becoming more and more active and also made some very visible actions, attacks, and the most visible was when the car belonging to the Russian embassy was burned by Molotov cocktail. And after that, authorities reacted and cracked down on all anarchist movements indiscriminately. E a partire dal 2009 gli attivisti anarchici in Bielorussia sono stati più attivi, scusate il giro di parole, e si sono sempre espressi attraverso azioni simboliche attaccando istituzioni russe, istituzioni governative, ma senza grandi violenze, più che altro azioni simboliche. E entrambi gli autori dei due libri sono stati arrestati nel 2010 per fondamentalmente perché anarchici, sotto l'accusa di aver fatto qualcosa contro le istituzioni, anche se lo ribadiamo qualcosa di simbolico. So they have done something symbolic against the institution, I mean without killing people or something like that. Obviously, and even at the court there was not enough evidence whether these particular people have done particular actions. It was obvious that actions were done by anarchists, and authorities more or less decided to pick up some anarchists and sentence them. Così questi due ragazzi, questi due giovani autori, sono stati arrestati soltanto perché la polizia ha fermato casualmente all'interno del movimento anarchico qualche persona senza avere prove concrete, sono state incarcerate, quello che purtroppo anche in Italia sta diventando l'arresto preventivo, senza che ci fossero prove a carico dei due militanti e autori anarchici. And how is being an anarchist and being imprisoned? What do you have to suffer? So the most spectacular story is that of Igor Alinevich, because he was before the trial he was held. First he was kidnapped, not detained normally, regularly, but kidnapped in Moscow by a Russian secret service and then transferred to Belarusian secret service and kept there in secret service prison, in KGB prison. La storia più pazzesca è stata quella di Nicola, perché lui è stato praticamente sottratto dalle autorità russe, è stato fatto sparire per giorni e soltanto dopo è stato, diciamo così, processato. Quindi è stato proprio un rapimento da parte delle autorità russe contro questo giovane anarchico, oggi studente. Scusate, è il primo, quindi Ivar Almivavich. Can you help me with the right pronunciation? Sto chiedendo a Vladimir se mi aiuta con la giusta pronuncia, perché... Eh sì, Igor Alinevich. Okay. So there in the KGB jail, at this particular moment it was after, so Igor was kidnapped and kept there before presidential elections of 2010. But after presidential elections 2010, many more political prisoners from all kinds of political spectrum were kept in the same jail, and at this point of time all of them were in different ways tortured. Quindi lui è stato anche torturato come altri compagni anarchici che sono stati letteralmente rapiti, no. Fatti sparire dal KGB. Like there were other people from different kinds of political spectrum, like liberals, conservatives, okay. Quindi, social democrats, arrested after presidential elections. Ok. Tutte le persone che erano, diciamo così, state compromesse dopo, per aver, diciamo così, non supportato il regime, quindi persone conservatrici, liberali, qualsiasi persona sia stata, abbia fatto, detto qualcosa contro il regime, è stato arrestato, ma non arrestato in maniera tra virgolette legittima, ma semplicemente fatto sparire in una prigione del KGB, dove queste persone sono state anche torturate. E questa author was tortured, he too, he suffered from torture. Yes, and these experiences are described in the book. He only managed to write down about his experience after he was sentenced. So he was transferred from KGB jail to an ordinary, like a regular prison facility, and there he was describing the past experience. And also, it was important that he was not describing present experience of him. He was not writing about the prison in which he was staying at that point of time, because he would otherwise also face police pressure. Okay. Lui ha potuto scrivere soltanto dopo che è stato trasferito dalla prigione del KGB in una prigione, diciamo così, tra virgolette, normale, e ha potuto scrivere solo della sua esperienza passata in carcere. perché se tu parli male della situazione carceraria che stai vivendo, chiaramente sei sottoposto purtroppo ad altri tipi di tortura. And it is important to underline that the book was written while in prison and smuggled outside of prison. Questo libro è stato scritto all'interno del carcere e poi diffuso dopo l'esperienza del carcere. And how could he survive to all these tortures that are psychological and physical too, without having contact to comrades or to family? How? There was very limited, but there was some contact with family, so that in case of Igor, his parents were able to visit him sometimes, and in case of Nikola, his wife was able to visit him sometimes, and sometimes very rarely they had phone calls, and there were many support letters sent to them, and only some of these letters arrived, but these letters also supported these guys, and actually they were psychologically very strong to survive, because there were other examples of political prisoners not managing to live through this psychological pressure, but also deprivation of sleep, like torture by cold, like without in chambers without heating. And other political prisoners sometimes wrote, asked for pardon from authorities, and they were pardoned in fact and released after that, but it was a political defeat for them. Loro hanno potuto ricevere saltuariamente visita dei familiari. E le lettere anche arrivate da sostenitori gli hanno dato la forza ad entrambi di continuare, di sopravvivere. Altri prigionieri politici però non ce l'hanno fatta, perché le torture, specie quelle psicologiche e le deprivazioni, sono enormi. Quindi essere esposti al freddo, alla mancanza di sonno, può chiaramente convincerti a ritrattare, quindi a chiedere perdono, e alcuni prigionieri politici hanno dovuto farlo perché non sopportavano più le condizioni che stavano vivendo. And relating to this, I have read in the book of Mikola, the so-called bitches, so the so-called people who betray someone who is a prisoner to get advantage. They are prisoners, they too, but they cooperate with the so-called operative to get something, for instance, food or something to eat. What about this? Sto chiedendo a Vladimir di che cosa sono quelle che Mikola chiama le puttane del carcere, cioè purtroppo altri detenuti, da quello che ho letto, che vengono spinti a tradire, a parlare male di qualche prigioniero in cambio di qualche piccolo vantaggio, perché all'interno di questo carcere esiste una figura che è the operative, che è il carceriere boia, colui che può farti prolungare improvvisamente la pena accusandoti di qualcosa. What about this bitches and this situation? The situation has long cultural roots. It was this institution of prison snitches was well established already back then in the years of the Soviet Union, but during the Soviet Union times prisoners, like criminals, were they were better organized, and they opposed to snitches and also punished some of them. And there was this cooperation. Not only some prisoners cooperated, but they knew that they may face punishment from other inmates. And in the recent 20-25 years in Belarus, the criminal hierarchy was almost destroyed by the state. But inside the prison, it means that there's like every move is controlled by prison administration, and it's more closely resembles worlds of Kafka or of Orwell. Sta dicendo che alcune pratiche risalgono ai tempi della cosiddetta Unione Sovietica, che pratiche dove i prigionieri venivano, diciamo così, strettamente controllati, ogni movimento era strettamente controllato, e questo, diciamo, è andato avanti anche negli ultimi 20-30 anni, 20-25 anni, il controllo stretto sul prigioniero, che non ha la libertà di muoversi, di fare qualcosa senza cadere sotto il controllo delle autorità delle prigioni stesse. And before we have spoken about the endless prison, that means that you are never sure when you will get free, because the authorities in the prison can give you 30 years just for having committed some, I would say, little action, such as they find dust in your cell, or you have wear an unbuttoned jacket. Just for this, you can have punishments, and this means that you will get not your freedom when you expected it. Yeah, that's what actually happened to Mykola Dziadok, that after serving his, like shortly before serving his sentence, before the sentence finished, he was accused of like misbehaving in the prison, and he received additional 1 year of sentence. Fortunately, then in 2015, there was like big political amnesty, and many political prisoners and both authors of these two books, they were released. Mykola faced these basically invented charges brought up by administration, when administration pretends that the prisoner was non-cooperative and can add 1 year to the sentence. And it is a court decision, but it is like manipulated court decision. There is no limit on how many times person can get this additional 1 year of sentence. With political prisoners, it is better. È quello che è successo a Mykola, che lui, per comportamento, diciamo, non conforme a quello che è l'ordine carcerario, che questi comportamenti sono chiaramente prove che non esistono, che sono create dalle autorità stesse del carcere, e a Mykola è accaduto di essere che la sua pena sia stata prolungata di un anno, ed è riuscito ad uscire dal carcere soltanto perché nel 2015 il presidente ha fatto una grande amnistia, e quindi è riuscito a uscire dal carcere. Aveva avuto, appunto, per comportamento non conforme, non meglio specificato, avuto un anno in più. And excuse me, Vladimir, this means that when you are in prison, every year you run into a new trail, a new process, and this means that the authorities can give you further years to stay in prison, just with invented

chiaramente incorri poi in delle repressioni. È quello che per esempio è successo a un giornalista che è stato accusato di aver rubato delle informazioni governative e di averle poi diffuse sui social. Chiaramente lui è stato supportato dai suoi colleghi giornalisti. Esistono giornali che sono finanziati dall'Occidente, ma soprattutto è la forza, no? La coesione che c'è tra giornalisti che permette di poter criticare il governo e alcune istituzioni. Here, for instance, in Italy, anarchists support homeless people. They are engaged in fighting for health and so on, for public health, because here, for instance, in Italy, the right to health becomes more and more problematic. How is the situation in Belarus concerning job, so unemployment, health, and school? In Belarus, anarchists support homeless through the Food Not Bomb sections, which sometimes face police harassment, but still they continue to deliver free food for homeless and protest walls. And anarchists as political force cannot, in our situation, cannot go to public entities and demand, like for example, admission of a homeless person into hospital. But individual anarchists work with NGOs or as volunteers or somehow support homeless people. Sì, gli anarchici cercano di aiutare persone che non hanno casa, magari con azioni individuali, perché non hanno l'opportunità, diciamo, di chiedere e di denunciare direttamente presso le autorità, quindi è un supporto che danno a livello individuale. And what happens if you lose your job and get an unemployed man or woman? Well, basically, in Belarus, we have a very weird system, because on the one hand, Lukashenko used social rhetorics when he came to power, but on the other hand, soon he abandoned it and started to use neoliberal rhetorics when the regime was already consolidated. And on the one hand, we still have some remnants of welfare state, like for example we have more or less free healthcare. It is not universal because it is limited only to people with a passport. People who have a residence permit have to pay. They don't have access to free healthcare. Quindi le persone che perdono il lavoro sono pochissimo supportate. E diciamo, il diritto alla salute è gratuito e garantito, ma devi avere la cosiddetta residenza, devi avere il passaporto. Se quindi non hai residenza, sei totalmente lasciato a te stesso. And so if you are not a citizen, if you don't have a passport, you are lost, you are alone. Basically you need either you need money or you are lost. There was a recent case when a guy died from cancer because his parents some years ago came from Ukraine, stayed in Belarus, worked there, paid taxes, had papers and everything. He also had papers, but not Belarusian passport, just Belarusian residence permit, permesso di soggiorno. And he was, and the hospital demanded some like huge sum of money for not to cure him, because it was already a late stage of disease, but even to ease his pain they were demanding money. So he basically died in his bed in his home because his parents were not able to pay for the healing. è per esempio il caso di un ragazzo ucraino che era arrivato in Bielorussia, lavorava, aveva pagato le tasse regolarmente, aveva i suoi documenti, ma non aveva il riconoscimento della cittadinanza bielorussa. Quindi la cifra che gli ha chiesto l'ospedale per essere curato era enorme, e lo stesso la cifra per avere una terapia del dolore. La famiglia del ragazzo non poteva sostenere spese di questo tipo, e quindi questo ragazzo ucraino, soltanto per non avere la cittadinanza, è morto di cancro soffrendo. And is there something else you would like to add? Just a couple of words to continue to describe social situation. For example, in our country there is almost absent support for people who lost their jobs. You will not get any unemployment payment. You are just sacked, and then you have to find your job yourself without, and for the month, several months while you are unemployed, you don't receive any money. Non c'è niente che simile a un supporto, diciamo così, se cadi in uno stato di disoccupazione. Quindi lo Stato non ti dà assolutamente niente, né si impegna a trovare un nuovo lavoro, quindi sei totalmente lasciato solo. And how can you survive if you have not a job, and if you don't receive just a little bit money from the state till the time you find a new job? Come puoi sopravvivere senza un lavoro e senza una piccola entrata? So people sometimes they are forced to live off the land, like becoming subsistence peasants out of industry workers, like small industry workers. Talvolta le persone sono costrette a emigrare in campagna, semplicemente iniziando a coltivare un piccolo pezzetto di terra, semplicemente per procurarsi qualcosa da mangiare. And one more thing I would like to add is that it's possible to buy paper copies of two books, both of book of Igor Alinevich, On the Way to Magadan, and book of Mykola Dziadok, Colors of the Parallel World, here at the festival, but also more regularly in CSA Next Emerson. And there is a copy of both books at the library of CSA Next Emerson. È possibile prendere questi due libri, comprare questi due libri al festival qui in Polveriera, al CSA Next Emerson, e è possibile anche scaricarli online. Can you tell us the internet page from which you can get these two books? Yes, Book of Igor Alinevich is available at the English version of webpage of Anarchist Black Cross Belarus. It is abc-belarus.org. So, il sito dove si può scaricare il libro in lingua inglese è abc-belorg.org. Another book by Mykola Dziadok is available at the website radicalbook.tilda.ws. L'altro libro, il libro di Mykola, si può scaricare da radioroadbook.tilda.ws. Ed è questo il sito. Tanto penso li scriveremo direttamente sul podcast. Anche ecco, we will write the right. Yeah. Una domanda, posso? I have a small question. Non so se è stupida, magari te la faccio in italiano, poi me la traduco. se in tutta questa situazione ci ha raccontato è utile, come stiamo facendo, come stiamo provando anche a fare con Radio Wombat e con questo festival e così, parlarne a livello di, fra virgolette, stampa internazionale, se può essere utile o no per determinate cause come, adesso, come quelle per cui ci ha raccontato, insomma. Is it useful for you to speak of such books in such a situation, for instance here in Polveriera during this festival? Is it useful to bring such stories to the international attention? It is important in any case to for both countries, I think, for Italy and Belarus to have exchange, because surprisingly sometimes we have very little knowledge of what is happening in other, even in other European countries, not speaking about Asian or African countries. It's interesting to have exchange between different activist cultures and to learn from each other. È importante sia per l'Italia in questo caso e per la Bielorussia, perché molto spesso sappiamo molto molto poco di paesi che sono in Europa, e quindi è molto importante avere certi tipi di contatto tra attivisti. E mi permetto soltanto di dire che nell'introduzione del libro Mikola sostiene proprio questo, cioè l'importanza di far conoscere quella che è una situazione. Prima, parlando con Vladimir, per esempio, abbiamo trovato una differenza tra quella che è l'Italia e la Bielorussia. Qui in Italia i fasci, si abbia il coraggio di dirlo, movimenti di estrema destra, persone di estrema destra, sono estremamente protette dalle istituzioni. Le forze dell'ordine stesse commettono atti che sono di estrema destra, invito soltanto a pensare all'omicidio di Magherini, se si può ammazzare un povero ragazzo per strada soltanto perché ha dei problemi in quel momento, diciamo così, semplicemente psichiatrici. Questo, mi diceva Vladimir, in Bielorussia non c'è, cioè le istituzioni sono contro movimenti di estrema destra e contro movimenti di estrema sinistra, ma l'estrema destra non è come da noi protetta troppo spesso da istituzioni e forze dell'ordine. I was telling what we were... Sì, capisco. Ok, ha capito, perché comunque Vladimir è qui a Firenze, sta studiando e sta imparando l'italiano. Ok, e niente, concluderei anche dicendo, insomma, Radio Wombat è sempre aperta, se ti venissero in mente contenuti da qui a per sempre, finché vivrà Radio Wombat, a accoglierli e metterli online, metterli in rete, parlarne, discuterne insieme, quindi le porte sono sempre aperte per tutte le trasmissioni, poi ci sono dentro Radio Wombat. You can come to Radio Wombat when you want to propose other items or to speak about something that you will put to the attention to Italian activists, and you are always welcome. Grazie. Grazie a te. Grazie.